Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 archivio bot. Eccolo lì, tutto rifatto! Michael Jackson? Ma chi è? Non puoi entrare, lascialo fuori! Lascialo fuori! Vittorino! Non lo conosco! Pronto! E quello chi è? Chi è? Pronto! Filippo Estornaro? Falla entrare a quello! Ma cosa? Falla entrare! Chiudi la porta che non sente, per favore! Pronto? Pronto! Sono Vittorino! Vittorino! Ma non gridare, Vittorino! Vittorino, puoi chiuderti in un ufficio, non si capisce niente! Oh! Pronto? Pronto! Ciao Vittorino dell'Hollywood. Ah, ciao Vittorino. Ma la selezione all'entrata. Sì, ma alle 8 del mattino non si fa selezione. Se permetti, l'Hollywood è chiuso. Non è vero che è chiuso l'Hollywood. Ma per favore, vuoi farmi credere che c'è Michael Jackson? Questa notte abbiamo un after hour. Sì. E ci stanno un sacco di personaggi famosi. Sì, tipo? Tipo, non lo so. Conosci per esempio i giocatori di pallone? Sì, sì. Chi? Tipo Ronaldo. Ronaldo è lì adesso. Sta qua con la moglie. L'hai fatto entrare tu? Conosco io Ronaldo, ma conosco bene anche la moglie. Sì. Il numero? Ma di chi? No, no. La moglie? No, ma no, non si può. No, sei un scemo. Oh, ma scemo. La conosco. Vittorino, tu sei noto come il più grande cacciapalle di tutto l'Hollywood. Io lavoro in locali di Milano. Sì, tu lavori all'Hollywood. A Casablanca, a Tocqueville, alla Trandica, allo Shanghai, al Café Soler, da tutte le parti. Ma se sei sempre lì fuori dall'Hollywood o dalla Casablanca? Io sono il piano più famoso dell'Hollywood. Ma che cosa? Sei il più grande cacciapalle dell'Hollywood. Pensi che questa sera ci sta una festa veramente importante. Sì. Sai perché? Perché? Sta l'anniversario di matrimonio di un mio amico. Si chiama Bettarini. Bettarini? Sì, con la Ventura. Ah, è un tuo amico Bettarini? Sì, conosco bene la Ventura io. Ah. È mia amica. Ah, sì? Abbiamo fatto un programma in televisione insieme. Ma quando mai? A Italia 1. E poi dopo io l'ho mollata perché avevo un sacco di cose da fare. Ma che cosa? Ma Simone è amica mia. Ma stai zitto. La conosco bene. Ce l'hai il numero? Vuoi parlarci con Simona? No, non istigarlo. Vuoi parlare con Simona? È lì? Vuoi il numero? No. Io sì. 0338. No, ma stai zitto. Mi interessava. Ma dai. Scusate un attimo. Sì. Pronto. Fale entrare a quello. Fale entrare. Chi è? Chi è quello là? Non lo conosco. Chi è? Oh. Chi è? La Gakan? La Gakan. E chi lo conosce? Lascialo fuori. Ma no! È l'uomo più ricco del mondo. Chi è quell'altro dietro, tutto vestito strano? Chi è? Chi è quello? Amico tuo? Giovanni? Giovanni? Chi è? Amico tuo? Pronto. Il sultano del Brunei? E chi cacchio? Lascialo fuori. No! Pronto. Che fai passare l'amico mio lì? Pronto. Giovanni? Fai, ma chi è Giovanni? Fai passare Luciano. Giovanni? Luciano Predabissi, quello lì. E chi è? È amico mio, fallo passare. Ma che cosa? La porta, adesso devo andare, ragazzi. Lascia fuori Onassi se fa entrare i panettieri. Ragazzi, sono Vittorino, devo andare adesso. Ciao, Vittorino. C'è cosa da fare. Ciao. Lasciami il tuo numero. Vuoi il numero? Dai. Voglio il numero. Dici? Il tuo. Dai. Io? Sì. 035, secondo. No, quello è il mio, scemo. No, quello è il mio. Ma tu sei Mazzoli. Sì. Ma io ti conosco a te, Mazzoli. Meno male. Ti conosco, Mazzoli. Posso entrare? Certo che puoi andare, Mazzoli, sei amico mio. Meno male. Vuoi il numero? Di chi? Dell'amico mio. Chi è? Mazzoli. No. Io lo voglio. 85, no! 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Bastardo. Adesso devo andare, ciao, che devo lavorare. Ammazzo di botte, Vittorino. In teoria dovrebbe riportarci sulla retta via. E infatti è quello invece che sta facendo. Tu l'unica cosa che fai è sì, si parla di rette vie, ma sul di altro retto vai tu. Esatto. Ma non è vero, solo che mi piacciono le botte. Ma fatele dare dalle Alpi. Madonna mai. Però c'è un altro uomo che ci porta sulla retta via. Bravo. È lei, Jimmy, grazie. Purtroppo sapete, ragazzi, voi essendo delle persone inutili, delle persone che alla fine della fiera non valgono niente. Grazie. Perché vedete, io ho una cicca in bocca, ragazzi. Quindi? Voi valete meno di questa cicca quando la sbatto per terra, ragazzi. Ma perché? La sbatte per terra? Voi valete meno di questa cicca, ma non quando la prendo per, diciamo così, masticarla. Dopo, quando l'ho masticata per minuti, sì? Voi siete, diciamo, avete un valore teorico molto più basso di questa cicca. Dai! Siamo meno di una gomma da masticare, non ci credo. Lei in fondo, secondo me, lei in fondo mi ama. Ma perché voi non avete avuto un'educazione adatta. Non avete avuto una persona che vi ha indirizzato nella vostra vita. Leone soprattutto, suo padre era un ladro, quindi figuriamoci. No, lì proprio l'indirizzo l'hanno completamente sbagliato. Ecco. Ma in generale, lei e quell'altra Susana non avete mai avuto delle persone che nella vita vi hanno, diciamo, ma così. Ma povera, non è una Susana, è un po' mignottina, così, è giovane. Sì, alto livello, insomma. Alto livello, certo. Sono una Susana di lusso. Sì, non sì. Vedo il lusso, però. Sì. Piano piano. Le Susanne di lusso però si fanno pagare, tu neanche quello. No. Ma io faccio beneficenza. Si vede con chi vai, infatti. Vabbè, lasci stare, dai. Cosa, cosa vuol dire ci con questa cosa? Ci con, diciamo così, una specie di profeta. No, la prego, no. Il cammino lungo la via. No, la prego, no. Ci colleghiamo con il nostro super fantastico Pino Masterflash. Che palla. Oh. Uno scemo. Radio Jimmy Network presenta. Bene. Benvenuti. Bene. Hey. Benvenuti. Strabose. Grazie. Vai Pino. Attenzione. Concentrazione. Sì. Pensa al tuo grappolo d'emorroidi. Dai. Pensa alla maglia. A un maglificio. Sì. Hai Mattia. Mattia Bazzar. Sì. Bazzar. Bazzar di Pippo. No. Pippo Landro. O Pippo Ladro. No. Pippo. Pippo from Ibiza. Sì. Pippo Inzaghi. Pippo Baudo. Pippo Franco. Franco. Franco Franchi. I franchi francesi. Ma basta. Ma torniamo alle pippe. No. Fatti una pippa. Dai. Benvenuto uomo. Benvenuta donna. Ciao. Oggi il vostro gladiatore delle stelle vi porterà nell'infinito buco nero dello spazio, dove la gente vive grazie all'energia pluritendenziosa. Sì. Attillatissima. Persino nelle scarpe. Ma cosa? Se siamo tutti pronti e il cerchio è chiuso, possiamo partire. Base grazie. Se anche tu ogni mattina quando ti svegli con la tua femmina a fianco gli ravani sotto il pigiama e lei incomincia a gemere sussurrando nel momento top il nome del tuo migliore amico, no! Allora anche tu sei dei nostri. Ma cosa? Benvenuto cervo di primavera. Attenzione. Se anche tu, per essere veramente di tendenza, ti vesti da Texas Ranger e vai fuori dalle discoteche a far le risse. Ma come? Bravo! Sei troppo avanti! Sei proprio un pirla! Pino! Capini? Capini? Sì. Se anche tu, quando è uscito il film di Superman, per fare il figo con la tua ragazza, ti sei buttato dal settimo piano e poi hai passato 5 anni di convalescenza, ma hai fatto il tuo bel figurone. Bravo, benvenuto. Io. Sei il capo. Attenzione, viaggiatori mentali. Sì. Come è consuetudine in questo programma di tendenza, ci colleghiamo col mondo esterno per sentire un bipede solitario in giro per questo mondo triste. Pronto, chi abbiamo in linea? Pronto, Pino! Ciao, chi sei, fratello? Mica, sono fortunato la concorrenza e ti dovevo dire troppo una cosa, posso? Sì, vai, fratello. Mica, lo sai che dopo la Fiat 1 tu sei troppo il numero uno dei ma numeri cosa? Uno? Ci stai dentro! Fortunato, hai detto che ti chiami? Sì, sono quello che è venuto alla discoteca. Ah, ho capito, sei venuto a vedermi la discoteca Croce Impazzita di Torino? Sono quello che gli hai tirato il disco in faccia. Sì? E gli hai aperto e mi ha fatto 600 punti all'ospedale. Bello. Ho capito, sei quello a cui sputo in faccia sotto la console. No, sì, che gli hai tirato anche il tavolino. Ci stai dentro, fortunato. Ha tutto il corpo inclinato. Dimmi che problema c'hai. Ascolta, ho appena rubato un uovo di cioccolato al supermercato. Sì, fratello. Allora, le guardie giurate mi stanno seguendo e minchia, non so troppo cosa fare, aiutami. Vai tranquillo, fortunato. Hai rubato un uovo di Pasqua. E c'è una guardia giurata che ti sta seguendo. Vai tranquillo. Bloccati di colpo, girati e digli io sono uno studioso. Io lavoro con Pino Master Flash. Ho rubato quest'uovo per capire chi è nato prima, se l'uovo o la gallina. A un certo punto la guardia giurata ti guarda la fisso negli occhi, tu digli sei una guardia giurata. E allora giurami una cosa. Giurami che andrai a fare in... No! Scemo! Cosa? Oh! Cosa? Questo. Ma ti rendi conto? Questo è scemo. Poi l'amico tuo questo? L'uovo di Pasqua, sì, a parte amico mio, ma l'uovo di Pasqua si trova a giugno, luglio, tranquillamente, tutti i negozi. Noi ce l'abbiamo in onda l'uovo di Pasqua. meglio. Salve uovo! Non sono un uovo. Lui è un uovo di... vai, questo è lo Zodi 105. È appena cominciata la terza ed ultima ora. E tra un po' non andiamo in vacanza. No! Anche perché diciamolo, a noi piace tantissimo a 28 anni di media, a parte il vecchio, alzarci alle 6 del mattino. È sempre stato il sogno della mia vita. Eh beh, impazzisci tu alzarti la mattina. Hai voglia? Mettiamo Dido, questa è Thank You. Oh, non ti singazzare. Congratulazioni, io. Cinese, cinese che ti metti il dito all'occhio. Dai. No, da un'altra parte. Però qui è bello, quella mano morta. Ma magari lo facessero anche in Italia. Sai quante donne vengono palpeggiate? Io ne ho menato uno qualche giorno fa in metropolitana. Ma veramente? Sì, perché mi ha fatto la mano morta con la minigonna, praticamente mi ha infilato la mano. Dai. Lì ha trovato allora il grappolo. Guardi che a te ha trovato il grappolo. Non è vero, menato davanti a tutti, gli ho detto vergognati brutto porco, e cioè, non gli fanno niente, c'era la gente basita, non sapeva come, aveva più paura di me che di lui. Beh, te credo, sei un toro. Guarda che vanno donne sul tram per farsi mettere la mano a morte. Ma stai zitto, lui deve sempre vedere la versione nera dei, delle cose, è così, no? È così. Ma stai perché zitto, tu scemo. Quando vai sul tram cosa fai? Io non vado mai sul tram. Come vai, vai, ma cosa vado? Vai a mettere vicino al pantalone. Ma stai zitto, stai. Senta, venerabile Jimmy, è arrivato un fax di un ascoltatore molto arrabbiato con lei. Sì. Dov'è finito DJ Dingo? Mi manca lui con Giorgi, la scossa di Arnold, oltre che Carlo da Giove. Dai. Li rivoglio, altrimenti vengo lì e picchio tutti. Guardi, anche sull'indirizzo di posta elettronica jimmy@105.net, sì, al quale potete, diciamo così, fare richieste d'aiuto in denaro. Sì. L'ente Jimmy Enterprise. Ma che cosa? Che è un ente di beneficenza che fa capo a Christie, la famosa agenzia di, diciamo così. Sì. Ha deciso, diciamo così, in via del tutto eccezionale, sì, di riproporre una puntata del DJ Dingo. Ecco, una delle puntate più significative, io oserei dire, anche sì, perché c'è un grande ospite. Beh, anche perché, diciamolo, come tutti sapete, lui ha solo ospiti internazionali, certo, ospiti stranieri, cantanti, diciamo così, di fama mondiale. Oppure motociclisti. Lui ha solo cantanti stranieri, italiani non ne vuole. Ah, solo stranieri? Italiani lui non ne vuole. Beh, non mi vuol dire chi è l'ospite? No, se no mi scusi, che sorpresa è, mi scusi. Vabbè, ci colleghiamo con il programma top di Radio Jimmy Network, Planet Dingo. Ah sì? Allo? Lui è on the air. 5, 4, 3, 2, 1. Dingo. Introducing. Benvenuti! Sì, sì, sì! Welcome. Questo è Super Pianeta. Sì, sì, sì, sì! Giorgi? Sì! Ciao, ci sei Giorgi? Sì, sì! Ciao! Sì, sì. Sei sceso dall'astronave, Giorgi? Sì, sì! Giorgi, vuoi essere pizzettato? Sì, sì! Sì! Giorgi, tu lo sai che ormai io vengo in onda? Sì, solo sì, quando abbiamo ospiti internazionali? Sì, sì, sì! Caratura internazionale? Sì, sì! Oggi abbiamo un cantante che viene direttamente dall'America. Ciao! Sì, sì, sì! Purtroppo parla inglese, quindi abbiamo la traduttrice. Paola, vieni qua, dimmi pure. Sì, ciao, ciao, io sono la traduttrice. Traduttrice, quindi... Abbiamo con noi ragazzi direttamente dalla costa sud dell'America centrale e meridionale, settentrionale e sud centrale. Abbiamo con noi Giovanotti. Ciao Lorenzo. Ma italiano. Ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Ma italiano. Lorenzo, vuoi fare un saluto subito ai tuoi fans? Come no? Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, sono contento di essere qui in diretta con te, è una grande emozione ritrovarti sempre così in forma e così. Sì. Grazie Lorenzo, naturalmente siamo qua perché purtroppo Lorenzo parla inglese, quindi. Ma italiano. Traduttrice. La prima domanda è la seguente. Sì. Lorenzo, wanna say think to the things tonks to the wit. I know that you have one can, one dog. And you know that in the conference stamp your can have a bayat. Ma go! Allora, io volevo chiederti se è vero che tu hai un cane e in questo cane in una conferenza stampa ha anche abbaiato. Ma come? Sì, sì, è una cosa vera. Ma cosa God! Vera. È una cosa, sai tutto tu, di noi. Lo so avuto, ero mimetizzato nella conferenza stampa, ma t'ho visto, eri lì sul palco da solo che parlavi, seduto su... Il mio cane si chiama Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio, sì, sì. Luca, altra domanda? Allora, abbiamo saputo che hai fatto quest'album dal vivo. Sì. Ho detto il tuo singolo, cantato interamente in inglese. Sì. Ma che inglese? Questa tournée che hai fatto, diciamo, sulle isole Fiji, mi pare di aver capito. Sì, sì. Ecco, lo sapere, I wanna say thing to the Fiji, to the one tournée in the Europe. Allora, la domanda è, Lorenzo, come erano le Fiji? Cosa? Ma è un bel posto, un po' freddo. Ma come le Fiji? La gente non è male, interessante dal punto di vista geografico, particolarmente anche dal punto di vista musicale e anche termodinamico. Ma cosa? Ma Lorenzo, mi piace con Giorgio, mi pare una risposta chiara, sì, sì, Lorenzo. Sì, cosa? Facciamo una cosa, mettiamo il suo nuovo singolo Lorenzo direttamente dall'America del Sud settentrionale, centrale, cibernetico, sound. Vai. Non è l'ultimo. Ma che è l'ultimo? Questo nuovo singolo. Ma cosa? Lorenzo, fai Love Found. Ma cosa? Felice Lorenzo. Complimenti Lorenzo. Mi piace, mi fanno bene il radio. Lorenzo, facciamo una cosa, prendiamo una telefonata di un ascoltatore. Ok, volentieri. Vediamo chi c'è in linea. Te lo dico subito, non mi fare i complimenti, se no vengo lui e ti tiro un pugno in faccia. No! Noti for president, dico. Dimmi subito la domanda che devi fare, Carlo, perché sei già uno scassapalle e non abbiamo tempo per te. Lorenzo, e dico, è successo la chiama sempre lui Lorenzo, lo sopporto più. Come ti chiami, scusa? Sono Carlo, Carlo da Giove, chiamo dall'altro pianeta, io ascolto soltanto i programmi cibernetici Sound. Ma cosa? Mi devo chiederti una cosa, come mai sei sempre sotto casa mia con i vetri appannati con mia moglie? State facendo un disco insieme, eh? Sì, stiamo cercando di fare un duetto, ma no, però ci vuol tempo, sai, per quelle cose, per farle bene ci vuol tempo. Ah sì, Lorenzo? Sì. Dico, sei... Carlo, tu non ti devi preoccupare, sai perché? No, dico. Perché tua moglie non riuscirà mai a fare un duetto, sai perché? Dico? Perché tu non l'hai mai pinzettata tua moglie, lo chiamo. No, sono 40 anni che sono sposato. Sai perché non l'hai mai pinzettata? No, dico. Perché tu pinzetti solo una cosa. Che cosa? Sai che cosa? No, dico. Giorgi, glielo vuoi dire tu? Sì, sì, sì. Diglielo, Giorgi! Sì, sì, sì, la scossa di Arno, sì! No! Anche come intervistatore con i grandi personaggi su un gran figlio! No! Ma perché la scossa? Perché? Ecco, la scossa che prende il nome dal più famoso tecnico, sì, che era Arnold, detto anche Udini, e Mimo Italiano. Mi ricordo prima la innaffiai come un fiorellino. Sì. Ma cosa? Dopodiché, dopo averla innaffiata come un fiorellino, sì, mi mise ad ascoltare il suo Alpa. Il suo? Alpa. LP sarebbe? Bravo, proprio quello. Alpa, sì. E dissi, perché non produrre questa ragazza? Certo. E da lì nacque il fenomeno Dido. Ma che cosa sta dicendo? A parte che il fenomeno Dido è nato nel 98 e sto CD qua è praticamente uscito due anni dopo alla fine. A parte che Dido... lo so, perché abbiamo, diciamo così, è rimasto in incubazione un po', capito? Ah, ho capito. Però come Leone è rimasto 40 anni in incubazione. Ma non avevi il Dido dentro. Stai zitto, scemo. Il Dido. Oh, stavo leggendo che da lunedì arriva la pillola antiimpotenza che agisce a livello nervoso centrale. No. È un nuovo Viagra, incredibile, c'è scritto. Allora, garantisce una maggiore velocità di azione. Agisce entro un quarto d'ora, mentre col Viagra si doveva attendere almeno il doppio del tempo, no? Invece? Poi ha molti meno effetti collaterali, come la nausea, mal di testa, disturbi della vista, eccetera, che non li ha più. E poi, insomma, garantisce di... Oh, e finalmente, era ora! Finalmente un rimedio ai suoi problemi, quindi, Baccioli, no, Leone, Leone ha problemi, no, di erezione. Ma figure, e c'è scritto, senti qua, allora, aspetta, numerose le ricerche sulle disfunzioni erettili, da cui si ricava che di impotenza soffre il 52% della popolazione maschile tra i 40 e i 70 anni. Ma stai zitto. Io ne ho 28, tesoro. No, ma a me va meglio di te. Ma stai zitto. Beh, io ho avuto un fidanzato che a 18 anni... Non aveva... funzionava? Beh, veramente? Una tragedia, ragazzi. Per forza, con te? Che come fai? Io garantisco che non ho mai avuto problemi sessuali, soprattutto a livello di erezione. Lo so. Però l'ho preso una volta il Viagra, per curiosità, ecco, ve l'ho raccontato. E ti sei rizzato il naso? No, l'ho preso in aereo. Cioè, io stavo per prendere un aereo, avevo sta pastiglia che ci aveva mandato un ascoltatore, e dovevo darla a Leone praticamente. Volevo infilargliela nel caffè di nascosto e fargliela prendere. Sì. Poi, siccome ci hanno spiegato che poteva avere veramente effetti cardiovascolari, sì, veramente... vedi che sta già morendo. Sta già morendo? Sì, ma mi viene da ridere perché poi cosa c'è andato con la... Leone, ascolta, se tu tieni le cuffie sul cocker, guarda, fischia. Guarda a me, guarda, anche se me lo dai, vuoi dire che me lo dai? Sono io. Sei tu deficienza. È tutta mattina che sclero. No, forse è un'altra cosa che mi fischia. Cosa ti fischia? Il cervello ti fischia. Le orecchie. Comunque l'ho provato e effettivamente ci mette un'oretta a far salire l'attrezzo. Ho capito, e poi... E poi comunque non è che... di colpo ti sale, cioè devi anche stimolarlo. E tu ti sei stimolato allora? Ma no, stavo guardando, c'era, sai il filmato che spiega come allacciare le cinture di sicurezza? Sì, sì. C'era la hostess disegnata al computer che era buona e lì... attraverso quella immagine. È vero, eh? Alla fine l'aereo è atterrato con due carlinghe. Senta, allora è successa una cosa un po' strana. Sì. Ieri praticamente è arrivato un filmato dalla redazione di Canal Jimmy, dal mondo animale, un filmato che parla di un animale molto raro, si chiama chiama Il Mazzuolo. Sì. Ecco, pensa, non è commentato dal solito speaker. No. Ma questo, diciamo, documentario è documentato dal direttore di testata, ovvero Alex Peroni. Quindi ci dobbiamo inchinare mentre lo ascoltiamo. Esatto, quindi c'è la voce di Alex Peroni che racconta questa vita insolita di questa bestia molto rara, ovvero il Mazzoli. Una specie in via di estinzione, diciamolo. Ma Toh! Tua sorella! Mia sorella? Sì. Non ho sorelle, mi dispiace. Suo fratello! Non ho fratelli, mi dispiace. Suo zio! Mi dispiace, deve estinguersi per forza. Vabbè, sentiamo. Sentiamo. Il mondo animale con Automobili Vulva, le prime automobili con tutti i problemi femminili, dal ciclo alle crisi depressive. Il mondo animale. Il mondo animale. Anche oggi la redazione del mondo animale vi porta a conoscere da vicino le innumerevoli bestie assurde e spesso prive di materia grigia che popolano la Terra. Oggi in via del tutto eccezionale, visto l'altissimo disgusto della bestia che andremo ad analizzare, sì, il mondo animale sarà documentato dal direttore di testata Alex Peroni. Alex Peroni. Buongiorno a tutti. Oggi ho voluto condurre personalmente l'appuntamento con il mondo animale perché trattasi davvero di una specie assolutamente unica nel suo genere. Il Mazzolo. Il Mazzolo. Uno dei più ripugnanti e sfortunati esseri viventi del pianeta, il Mazzolo. Il Mazzolo non è un mammifero, né un oviparo, e ancora non si conosce esattamente il suo modo di riprodursi. Sì. Di solito appare già formato, di quella forma da gobbo di Notre Dame che manterrà fino alla morte, nei pressi di Luna Park, giostre, più in generale dove il grande passaggio di specie animali diverse favorisce una promiscuità assoluta, sì, contribuendo all'incertezza sull'origine della specie e soprattutto dei singoli individui. Il Mazzolo è quindi per natura un disadattato, un essere incapace di stabilire relazioni emotive che non siano basate sull'inganno, sulle menzogne e soprattutto sull'invidia del pene di cui è privo. Ma cosa? Un'altra caratteristica inquietante della specie, infatti, è l'assenza di esemplari femmine. Tant'è che i Mazzoli, sì, passano la vita cercando di accoppiarsi con le donne degli altri. Ma non è vero! Comportamento chiaramente incomprensibile, poiché, anche in caso di successo, non si capisce con cosa potrebbero compiere l'atto, se non con il naso, che la natura fornisce loro in misura nettamente sproporzionata. Nonostante questi gravi difetti congeniti, cui vanno aggiunti una disgustosa avidità e un disprezzo imperdonabile per tutto ciò che non nasce dalla sua mente malata, spesso il Mazzolo riesce ad attraversare una fase della vita che potremmo chiamare glielo schiaffa da un c***o tutti, in cui inopinatamente notevoli schiere di esseri viventi anche di altre specie trovano il modo di fare del Mazzolo divertente e godibile. Ciò è solitamente frutto dell'inganno e dello sfruttamento più bieco delle idee e o intuizioni di una ristretta cerchia di sbandati che lui riesce a controllare per un certo periodo tramite un miscuglio di promesse fallaci, finta solidarietà e squallidi ricatti. Ma che cosa? I benefici morali e materiali che il Mazzolo ricava in questa fase non riescono però mai a fargli raggiungere l'equilibrio e la maturità sufficienti per uno sviluppo dell'intelligenza ed un arricchimento dello spirito tali da portarlo finalmente ad evolvere verso uno stadio superiore. Certo. In cui la visione del mondo sia perlomeno paragonabile a quelle delle specie superiori, come la Lampalmieri, il Marco Galli, fino all'Alex Peroni, di cui invece non è in grado di capire nemmeno i più semplici ragionamenti. Ma cosa? Fino ad oggi ciò non si è mai verificato. Sì. E normalmente i Mazzoli alla fine del ciclo vitale si vedono sempre raccolti in piccoli gruppi, tristissimi, agli incroci stradali, armati di piccole spugne sporche e bottiglie di plastica contenenti liquido schiumoso, a caccia del sostentamento necessario a concludere in miseria la loro esistenza inutile. Perone sei un campione. Ma stai detto tutte le cose vere. Ma se non hai capito una parola. Ma vaffanculasso, ha detto le cose. Ma come? Hai sbagliato anche tutti gli accenti. Voglio Peroni qua. Non c'è la che guarda che ha detto le cose precise. Sì, sì. Anzi, è stato pulito. Peroni, per favore, ne scrivi uno nuovo anche su Leone di Lernia. A me. Beh, il mondo animale su Leone, guarda, si può sintetizzare così. Basta. Qua in zona, sì? Salerno. Sì. E lavoro con i miei genitori. Sì. Praticamente una notte vengo a prendere il latte perché arriva tardi, arriva di notte. Sì. La mattina penso, ok, tornano loro, tolgo mano io e mettono mano loro, insomma, facciamo il turno. Certo, mi aiutate. Nessuno ti ha detto di andare, mi dicono, nessuno ti ha detto di andare, quindi tu devi lavorare pure oggi. No. Bastardi. A che ora ti sei alzato? No, io non ho proprio dormito, sono andato alle 11 di sera. Sì. Alle 2 ho finito a scaricare, alle 4 ho messo mano. No, e quindi hai finito tutta la giornata fino alle 2, alle 3 del giorno. No, sì, quanto ti danno? Quanto guadagni? Guadagno pochissimo, ragazzi. Cioè tipo 10.000 lire al giorno. No, scherzo, no, 10.000 lire al giorno. La verità, la verità. La verità, 1.100.000 al mese. No, non ci credo. E poi che compri il latte compri. Le stragi di Novi Ligure, ecco come nascono. Ma cosa? A volte i genitori guarda, se le tirano, eh. Madonna. Mi prego, ti obblighi ad ucciderli. Sei scema. Anche mia mamma ogni tanto, Ma tu ce l'hai di più con i tuoi genitori o con tuo fratello che non fa niente? Con mio fratello che non fa niente, anche con loro che gli permettono di non fare niente, porca puttana. Per esempio, tuo fratello quanto guadagna? Guadagna lo stesso, però fa la metà 1900. Di quello che faccio io. E fa la metà. Quindi tu ce l'hai a morte con tuo fratello, immagino. No, siamo lì, il livello è quello. Tipo tra me e Leone, il rapporto è quello. Ma guarda, no, penso che il nostro rapporto sia come un rapporto d'amore. Sì. Beh, comunque noi ti diamo 2 minuti per insultare tuo fratello. Dai, a questo punto. Vai tranquillo, vai. Ok. Vai, come si chiama? Si chiama. Vabbè, non lo posso dire. Ma diciamo dillo, dai, diamogli un nome fittizio allora. Dai. Vabbè, ok. Chiamiamolo Leone. Dai, vabbè. Così almeno. Così mi viene meglio, va bene. Esatto, va bene. Vai allora, caro Leone. Oi, uè bastardo, che ma chiamati non viene a mettere mano insieme a me. Puoi zitto sangue la mattina in tuo bar, ci metto 3-4 ore quanti va che presto ti dico, facciamo un presto, perché si becchi e cazziato, mi becchi e cazziato. Ricchione così! Bravo! Abbiamo capito. Non insultano i napoletani, i campani, non insulta nessuno. Ma dai, bellissimo, veramente. Ah, devo insultare pure in italiano. No, ma suona proprio bene, bello così. Io concluderei con un bel. Caro Leone, visto che tuo fratello, facciamo finta, si chiama Leone. Caro Leone, ma vedi di andartene un po'. Dai. Vai tranquillo. Ma vedi di andartene un po' a fanculo. Oh! Come ti senti adesso? Ma mi sento meglio, Dricavo. Però il 1.100.000 non aumenta, eh. No, mi sa di no. Anzi, mi sa che diminuisce. Anzi, adesso. Mi hanno sentito la radio. Ma sei già al lavoro adesso? Mo torno al lavoro, sì. Ma sì. No, poverino. Guarda, io se lavoro è perché mi piace questo mestiere. Se no? Se no non lavoravo, no. Andai a fare le rapine. Adesso ti daranno qualche mozzarella? Venivo in radio con voi. A proposito, serve lavoro in radio? Sì, ci serve uno che sostituisca Leone, perché tra un po' lui va sottoterra e quindi abbiamo bisogno di uno scemo. Ho capito. Uno scemo abbiamo bisogno, se vuoi. Ma anche per pulire i bagni, basta che mi fate usare la testa di Leone come spazzolone da cesso. Beh, se calcoli che tu prendi 1.100.000 al mese e fai veramente un lavoraccio, nel senso che ti sbatti, eccetera, Leone ne piglia 5 e non fa niente. Sicuro. Vedi un po'. Leone? Okay. Lo so. Ragazzi, adesso ti daranno 2 minuti al mese di riposo a te, non ti daranno più di quello. Quindi... Sì, guarda che va finta di dato voi per parlare, insomma. Ciao amore, buona giornata, ti mandiamo magliette e cappellino. Ok, ciao Gabriele. Te. Era quella la cosa forte. È quella la cosa forte. 105. 105. Roba Dazzo. Solo roba da deficienti, roba Dazzo. Solo roba da incompetenti. Tutto questo è lo Zodi 105. Questa è Radio 105, lo Zo, buongiorno, salutiamo Linda da Empoli. Pensa, sabato vengono a trovarci al Tartana. No! A Grosseto, sì. Siamo in 6 e spero che il maiale di Lernia non ci sia. Invece c'è, purtroppo c'è. Ricordiamo invece stasera, io e Giba non siamo al Karma a Milano a lavorare. Non facciamo i danni e soprattutto non esordiamo ogni volta che lavoriamo insieme con... Ragazzi, scusate, spegniamo il disco. Ho una buona notizia per tutti voi di Milano. Leone di Lernia è morto. Salutiamo tutti i ragazzi, Davide, Pino, Max, Luigino, Esposito, tutti. Bravo Zib, fortissimo. Ragazzi che stasera saranno a cena con noi. Ottimo, direi, ottimo. E poi ricordiamo, domani sera siamo al Tartana. A Bologna. Senti sta notizia, allora, c'è un primatista dell'hot dog, cioè quest'uomo qua, un giapponese tra l'altro, a New York, ha mangiato 50 hot dog in 12 minuti. Hai presente il wursterone? Sì, lo so. Però voglio dire, loro dicono che è un primatista, non è vero? Non è vero. Perché tua moglie, Nenna Rosa, ne ha mangiati 150 in 3 minuti, pensa con la bocca chiusa. Ma va? Non si spiega questo record mondiale. Ma cosa ha fatto Nenna Rosa? Le fa sparire dietro? Non si sa, Leone. No. 150 hot dog in 3 minuti, erano tutti di colore, tra l'altro. Poverina. Povera Nenna Rosa, guarda, io sono dalla sua parte, dovete smetterla di trattarmela male. È il mio idolo, Nenna Rosa, riesce anche a sopportare Leone. Riesci a parlare normale tu stamattina? Non lo so come fa. Perché? Perché praticamente ieri ho svuota la bocca, no? La lingua. Ho sforzato un po' troppo la lingua e sì. Quindi per che cosa? Sì, per mangiare il gelato. Sì. Infatti. Un gelato. Ah, ma finisci, la va. Zitto, va. Un calippo. Sì, un calippo. Certo, sì, sì. Quello di Leone. Sì, ma adesso non gli do il cono, io la faccio. Ma aspetta. Vi diamo il fax 02-655-1245 da tutta Italia. Fra poco un PR dell'Hollywood. Vittorino! Vittorino! Ma l'idea è quella! Ma chi? Chi è quello? Chi è? Chi è quello? La musica! Albertini? Il giocatore? No! Ah, il sindaco di Milano! Sì! No, sta fuori! Ma come? Non può entrare! Ma allora, Vittorino, sei alla porta. Non è amico mio! Ma no, sei alla porta dell'Hollywood! Giovanni! Giovanni, l'altro socio! È il socio! Giovanni! Meno male! Allora, siamo in collegamento con un PR di una famosa discoteca di Milano, la discoteca Hollywood. Meno male che ce la porti Giovanni. Giovanni chi è allora? È un altro socio? Sì, quello. Pronto? Ciao Vittorino. Ciao Vittorino. Mazzoli. Come stai? Bene, tu mi, come stai? Io bene, mi spieghi cosa fai fuori dall'Hollywood alle 8 di mattina? Senti che è venuto Albertini, giocatore. Sì. E l'ho fatto entrare. Vabbè, ma entrava comunque, è un calciatore famoso. Ha detto che per ringraziarmi mi fa fare una partita di campionato col Milan. Ma che cosa? Anche Maldini, anche Maldini. Lo conosco io Albertini, Sì, sì, certo. Dai il numero. Vuoi il numero? No, dai il numero. No, non dare il numero. Non istigarlo. Sai che faccio collezione. Ma no. Pensi che sono venuti un sacco di personaggi, Sì, per esempio? È venuto Armani. Armani? È entrato? Mi ha regalato 200 milioni di vestiti. Sì, è entrato, spero. È amico mio. È entrato? Sì, è entrato. L'ho fatto entrare io. Se no non entrava? E per ringraziarmi mi ha fatto una linea nuova. Cioè? Armani Vittorin. Ma che no! Armani Vittorino. Che chic! Che lui è amico mio, Certo. Ha dato il numero. Ah, ecco, bene. Lo vuoi? Mi dai il numero, sì. No, sì, no. 0348. No, non dare il numero di Armani diretta, ci denuncia. Sei scemo, quello lì è delicato. Grazie Vittorino. Vittorino, chiudi la porta! Falli entrare a quella! Ecco! E non saltarmi! Falli entrare! Vittorino! Falli entrare! A chi? Chi è quello? Chi è quello? E chi è? Chi è? Carla Zeglio Ciambi? È famoso! E chi è? Come chi è? Il Presidente della Repubblica? Non la conosco! E qui? Lascilo fuori! Ma no! Ah, non si può! Alle 8 del mattino viene a ballare in discoteca Ciambi! Pronto! Falli entrare a quello! Sentiamo, chi è? Chi è quello là? Chi è? Chi è quello là? E chi è? Ah, ho capito chi è quello là! Chi è? Beppe Grillo? Ah, ho capito. Fallo entrare, famoso. Non lo conosco. Ma come? No. Non lo conosco. E quindi? E lascilo fuori. Ma dai! Chiudi la porta, Giovanni! Giovanni, chiudi la porta! Vittorino! Adesso devo andare perché ho un sacco di cose da fare. Va bene, ti saluto. Io sono il piede più forte di Milano. Ecco, dai il tuo numero in onda allora. Vittorino. Dai il tuo numero in onda. Tu sei Mazzoli, Sì. Ti sento sempre alla radio. Bene, grazie. Tu sei amico mio. Sì, quindi? Tu sei amico mio come amico mio anche Antonio Frangipane. Chi è Frangipane? Famoso lui. Tu sei amico mio Mazzoli. Sì, e quindi? Io conosco Mazzoli. Allora? Lo conosco bene. E allora? Vuoi il numero? Di chi? Io Mazzoli. Sì, lo voglio. 0335. No! No! Non fare il figlio di... Per favore! Ci devo andare, ciao! Vattene a fare... Madonna. Grazie Vittorino! All'entrare qui! Lo Zodi 105! Vuoi il numero di Mazzoli? No! 035 71 16 400 No, ma brutto deficiente! Ma è mio, scemo! È mio, dai! Ci sono strade grosse come... Fai conto via Glucca, sì. Così. Basta. Cioè, o arrivi con la carrozza e i cavalli oppure non c'è. E non c'è un benzinaio. No, 200 km. E lui diceva, Leone diceva. Sai chi è stato? È stata la piscina, è quella che ha fatto togliere tutti i distributori. Così qua non facciamo benzina e rimaniamo qua tutta la vita. È vero, dai. Vabbè, insomma, parliamo d'altro, parliamo di cose più serie. Anzi, prima c'è il lancio dell'estate 2001. Ah, scusa. E poi parliamo di cose serie, vai, andiamo. Messaggio in codice per l'ufficio della direzione. Messaggio in codice per l'ufficio della direzione. Lo Zodi 105, il 13 luglio, va in vacanza. Va in vacanza. Buon lavoro, Peroni. Buon lavoro, Peroni. Lo Zodi 105. Ci vediamo a settembre. Non riesco più a parlare bene di quella città. Noi abbiamo Padova. Sì, no, che Padova. Verona. Verona. Verona, Siena. E poi? Basta. No, Grosseto non ha lasciato nessuno. No. No. Sardegna, niente. No, Leonardo, no, che ho trovato ieri, che ha detto che anche lui. Chi? Leonardo. Ma chi è? Quello che abbiamo trovato ieri a Folonia. A Folonia. A Folonica si chiama, non Foloi. Oh, chiedeva. Senta, come ci fa a uscire da Folonia? Folonia, che cos'è Folonia? E qui dove siamo? A Folonia, Follonica, ignorante. Una ragazza me l'aveva detto di andare lì, di fare questa strada qua, sì, di là, sì, invece sì, abbiamo preso la Parigi. Volevo ringraziare tutta la spiaggia di Follonica, perché in un'ora non sono riuscito a trovare un ombrellone e una cabina per cambiare. Ti sta bene, ti sta bene. No, comunque io amo Siena, Siena. Dai, è bellissimo. È vero. Però per colpa di una persona, guarda. Però non ha messo i benzinai. Ma cosa ti ha fatto questa ragazza? Niente. Cosa l'hai fatto tu, eh? Io. Oh, senti chi c'è, senti chi c'è. Lo so, è Bobo. Salve a tutti, io visit out. Voi siete Terroni? No, lui Terrone. No, no, non sono io Terrone. Non dire così, Marco, poi se ne accorgo. Gli zanzaniani si inseriscono perfettamente nella società, sì, e iniziano piano piano ad impossessarsi di ruoli importanti. Ovviamente per poi riuscire a rubare le solde in maniera più semplice. Oltre ad inserirsi perfettamente nella società, qualcuno di loro riesce addirittura a buttare giù a cane qualche innocente terrestre. Il capo degli alieni, Tato Zanz, è forse il primo che butta giù una povera campagnola, Nenna Rosa. Nenna Rosa. Che rimane subito incinta. Oddio, Tato Zanz, mi ha inglobata. Va bene che ne hai 8 di Super Maori, ma almeno un preservativo potevi metterlo. Dai, tranquilla, vedrai che bel bambino che viene fuori. Adana, dai, che bel bambino. Stai tranquilla, stai tranquilla. Sono rotte le acque. Adana, dai, che adesso arriva Mosè. La povera Nenna Rosa è completamente ignara della tragedia che la sta aspettando dietro l'angolo. Dietro l'angolo? Sì, sta per partorire un mostro Anibal. No! Un escremento parlante. No! Poca voce, poca voce. Stai tranquilla. Sto uscendo. No! No. Cosa brutta, ma morta. Dove cazzo mi tenevo quella lì? Che brutta faccia. Che faccia di me. Non perdere la prossima puntata de I Visitors. L'attacco alieno. E che attacco. Sti c***o. Oddio, un mostro. Non puoi. Sei bello tu. Chi cacchio è che ti ha mondato? Madonna. Adesso come faccio la grande a sposarmi? Questa stronza di mamma qua. Bravo! Erano i Visit Outs. Bad Movie. Oh, guarda quella lì, bravissima quell'attrice. Guarda, ha vinto un Oscar. Ma cosa fa adesso? Lavora con De Niro quella, eh? No, l'hanno licenziata da un programma radiofonico su 105. Quindi è tornata sulla strada, battere a Chinatown. Brava, complimenti. Buona fortuna, ciao Chiara. Qua, le unghie invece delle mani più lunghe, eh? È di questo indiano, aspetta, quando? 615 centimetri. Guarda che roba arrotolate. Che schifo, dai, ma come si fa? Quando deve fare la pipì è un problema. Sì, come fai? Anche se ti fa si una cosa tutte le volte. Si taglia le unghie o si taglia l'affare? Si taglia. La persona più vecchia vivente, Leone di Lernia, nato nel 1825. Pensa a te, Morto ieri. Morto ieri, però esatto. Però sto bene ancora. Ma cosa stai bene? Cosa stai bene? Vabbè, dobbiamo collegarci con il libero sfogo dei nostri ascoltatori. Ci colleghiamo con la Bastard Inside Line. Lo Zodi 105. Zodi 105 presenta Bastard Inside Line. Bastard Inside Line. Linea Bastardo Day. Bastardo Day. Bastardo Day. Pronto? Ma vieni! Lo Zodi 105. È vero. Elisabetta! Sono con bocca piena. Cos'era? Il 105 pitagorico l'ha inventato l'amico di Peroni, Peretta. Chi? Peretta. Sono leone, io sono leone, sono in putrefazione. Sono in una gay band, sono in una gay band e lo prendo sempre nel culo. Ciao amore. Ciao. Siamo Martina e Marco dalla provincia di Milano. E vogliamo lasciare un fantastico messaggio per quelle brave persone dello zoo. Grazie. Siete grandi. Amore. Leone escluso ovviamente. Ciao. Ciao amore. Ciao. Leone escluso. Sono io, sono Fabio e l'ho rapito, ve lo faccio sentire. Aiuto. Pagate le solde oppure succede questo. Datemi la soldi. Io gli darei i soldi. Se sei bastardo dentro, anch'io. Lascia il tuo messaggio bastardo allo 02 29 00 52 87. 02 29 00 52 87. Madonna mai. Che ruttone, eh? Bello, bello. Bello rutto, Leone. Ha superato questo qua. Però vedo la tua faccia, la mano. Che cosa? Questo qua c'è il naso tuo. È un rapimento è tuo, eh? Sì. Io lo so cosa ascolti tu, Giorgi. Sì. Ascolti solo la scossa di Arno. Sì. Tutto questo è lo Zodi 105. Forse un giorno lo stamperanno per la Bastard Inside Line. Vero Peroni? Direttamente dall'orto, c'è l'85 me. Ai, chi ve l'ha fatto fare a fare queste cose in trasmissione? È colpa di Peroni, yeah. Vai, andiamo. Roba da zoo, solo roba da incompetenti. Roba da zoo, solo roba. Leone. Un maiale coccherato al micro, col fiato che devasta un tipo di individuo in grado di mangiarsi un grillo. Bello. Sarebbe come fare un complimento al nulla. Lo zafferano splende dalla bocca una scintilla. Potrebbe scatenare un cataclisma. Inviaturati conosciuto come Leone, lo specialista. Onnipresente in TV, come Divi. Ma il tanfo lascia in City quando arrivi. Negli studi fa attenzione, potresti sbattere contro una zone di terza dimensione. In trasmissione, la mucca pazza, Gibba. Esplosione addominali tra animali da psicanalista. Se pure tu ti svegli nei fienili con una corda appesa al collo e senti sti imbecilli. Meno male che dall'alto Jimmy regna per la Bastard Inside Line Feed Pro da Sardegna. Roba da zoo, solo roba da incompetenti. Roba da zoo, solo roba da deficienti. Leone da zoo, solo roba da incompetenti. Roba da zoo, solo roba da deficienti. Se ti capita di stare male per il caldo in spiaggia, se ti vuoi abbronzare, arriverà puntuale una scorreggia. La trasmissione che non piace in onda, affonda mo di melma mamma. Invece del buongiorno manda tutti a nanna e sgombra. Queste cricche di adesive con 4.000 lire cimi. Organizza viaggi alle Maldive, signorine pronte a tutto. Con Leone si rimorchia, sì sì, ma chili di prosciutto cotto. Roba da pezzetti in atto, se Gutelax non vi perfetto, beh, avete azzeccato. Roba da zoo, solo roba da incompetenti. Roba da zoo, solo roba da deficienti. Leone da zoo, solo roba da incompetenti. Roba da zoo, solo roba da deficienti. Ma Pionello, Leonello, con l'ernia un bel profumo da vitello. Messi e Torello, ven giro col biscotto fatto. Ci manca solo un bel trinozzo per renderlo stanco. Non si conclude, nada tranga. La manda proprio non arriva la mutanda. Anche se inganna con quel nasone, solo Mazzoli è in grado di sfiorarla. Dal retro Nodorino ci baciamo la tutta in onda. Una condanna che Jimmy sopporta. Roba da zoo, hey! Solo roba da incompetenti. Roba da zoo, solo roba da deficienti. Roba da zoo, solo roba da incompetenti. Leone da zoo, solo roba da deficienti. Vi aspettiamo insieme ai Feed Prod dal vivo, farà il nostro disco che è carinissimo. Bello, bello. Grazie ancora ragazzi, alla discoteca Maramura a Capoterra, Cagliari, sabato. E Leone non c'è, meno male. Intanto sono le 9:04 e continua lo Zodi 105. 105, 105. Chiara. Oh Marco. Fatti frustare in diretta, Chiara. Oh sì, Marco. Dai che siamo in vetrina, Chiara. Ci siamo con la cuffia. È da tanto tempo, deh, che te lo volevo dire, Chiara. Ti senti a casa tua quando recito, amore? No, mi sento a casa mia quando mi frusti. Se volete mettervi in contatto con lo zoo e frustare virtualmente Chiara, il fax è 02 655 12 45. Infatti nessuno per questo è l'occhiaio. Ieri ha portato qua sto specie di fidanzato, un bel ragazzo, gli ho detto ma sei pazzo? Mi fa no, ma è stato un errore, ero ubriaco. Ma chi? Lucio Dalla, quello lì tutto peloso di ieri? Sì, quello peloso, un bel ragazzo insomma. Un bel ragazzo, sì. Infatti, vabbè, lo sarei bombato pure io. Che lei va a prendere i ragazzi e ce li porta a lui. Non è vero. Vabbè, comunque c'è un momento molto importante, vero venerabile? Sì, anche perché voglio dire i ragazzi si impegnano. Sì. I ragazzi, e sto parlando di Pino Balera e Beppe Pista. Sì. Si impegnano perché loro sono in onda svariate ore a Radio Gibi. Fanno pena. Siccome sono in onda da stanotte le due. Come? Allora, quante ore fanno di trasmissione? Loro non hanno un timer. Ah, ho capito. Loro quando si stancano vanno a casa. Ma che cosa vuol dire? E di conseguenza l'altro DJ deve essere subito pronto. Ah. Quindi può essere che loro comincino alle 2, sì. L'altro DJ arriva alle 5, ma magari deve aspettare fino alle 9 di entrare in diretta. Ma mi spiega una cosa, perché chiamano sempre quel poveraccio che risponde no? Loro fanno i numeri a caso, sì, un gioco. Certo, vabbè. È un gioco, quindi è così. Adesso ci dobbiamo collegare perché il gioco continua. Sì. Bisogna indovinare quante pennette ci sono, ragazzi. Certo, un programma per i veri giovani, diciamo, eh? Bravo. Beh. Radio Jimmy Corporation presenta Mattinatissima. Mattinatissima. La mattina giovane di Radio Jimmy Network. Sì. Radio Jimmy Network. La techno più forte, la house più nuova e le ultime novità dance presentate dai DJ di tendenza Pino Balera e Beppe Pista. Mattinatissima. Mattinatissima. Mattinatissima. La musica nuova prima di tutti è su Radio Jimmy Network. Vai Belezoi. Io cerco l'amorosa. Anch'io caro. La voglio romagnola. Bravo Zizi D'Agostino. Ma che Zizi? Verginella. E ormai sono tutto un po' mignotte. La cerco campagnola. Sì, quelle sono buone. La voglio in esclusiva. Assolutamente. Che pensi solo a me. Sarà la mia amorosa. Poi diventerà mia sposa. Peccato, caro Zizi D'Agostino. Ma che Zizi D'Agostino? Le parole che tu appunto hai scritto in queste canzoni non rispecchiano la realtà, perché sappiamo che ormai quando ti sposi e passano circa 12-13 mesi tua moglie si fa buttare giù da un altro uomo. Mattinatissima su Radio Jimmy Network, la musica più potente, la musica techno, la musica di tendenza che si balla in discoteca, insieme al Beppe Pista che un attimo nel bagno ma mo arriva, e insieme al Pino Balena. E attenzione, Balenzoie, vai! Siamo arrivati a un nuovo appuntamento di Radio Jimmy Network. Sì. Se volete anche voi vincere il super premio messo in palio dal nostro sponsor, sì, dovete rispondere alla domanda misteriosa per vincere due meravigliose scarpe ortopediche da ballo. Ma cosa? Così anche tu, che sei la gambetta di legno, potrai ballare in tutta tranquillità sabato notte alla Balena, dove saranno offerte anche questo sabato delle fantastiche pennette all'arrabbiata. Ma il gioco di oggi consiste nell'indovinare quante pennette all'arrabbiata c'erano nei piatti sabato sera alla Balena. Proviamo a chiamare un ascoltatore a sorpresa. Vai, sempre quello, vedrai. Un altro. Pronto? Ciao bella Zoia, questa è Radio Jimmy Network, stiamo facendo un gioco. No. Mi passo un attimo il Beppe Pista. No. Allora senti bel bambino. No. Il gioco è la parola misteriosa. No. E oggi vinci due scarpe ortopediche che abbiamo usato alla Balera sabato sera. Stai calmo, non ti emozionare. No. Lo so che il gioco è difficile, ma il monte premio è bello alto. Allora da dove chiami? No. Non chiami da no. Cos'è, una città, una provincia? No. Ma è piccolina come città? No. Ah, è una provincia nuova del quale non conosciamo la targa? Oh, Beppe, passezza! No. Allora senti, facciamo una bella cosa. Hai una fidanzatina? No. Non ce l'hai? Povero. No. Quanti anni c'hai? No. Allora facciamo... Nove anni. Ma cosa? Allora tra un anno fai l'esame della scuola elementare. No. Sono difficili l'esame ultimamente. No. Secondo lui no, caro Beppe. No. Ha fatto la battuta del no! Bravo, no! Allora facciamo una bella cosa. No. Dizzi quante pennette c'erano dentro al pentolone con il pestolone che mescolava Zio D'Agostino. No. Dai, bravo. No, no. Se la puoi fare? No, no. Dai? No, no. E la risposta è esatta. No. Cosa? Bravo, no, Lulu! Bravo! E allora, dedichiamo questa canzone alla fidanzatina di Nonò. Un ragazzo di tante parole. Pensa che la balena abbia fatto una chiacchierata di 8-9 ore. Ma cosa? No, no, no, torna presto! Ciao, e ti dedichiamo alla nuova produzione di Zizi D'Agostino. Ancora. A domani con il nostro zocco della parola misteriosa. Ciao a tutti, vai col finale! Passaggia! Ma che tristezza, oh! Oh, questo sì che risponda bene, dai. No, no, no, no, no, no. Sì, sì. No, no. Sì, sì. No, no. Sì, sì, puoi no, no. fare in culo due. No! Non è campionato, giuro. È lui che risponde sempre no, no, no, no, no, no. Io lo voglio conoscere. È un mito, è uno che parla tanto, però un po' noioso, eh. No, vediamo Lou Bega! Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 archivio bot. Non c'ha più i fianchi, niente. Niente, niente. Ha un bel fisico visto in foto, però quando era Festival Bar faceva anche un po' senso, eh. Meglio tutta un po' di sembra malata. Sì. No, meglio un po' di carne, ma tu esageri, sei una macelleria ambulante. Non è che c'è la carne addosso. Stai zitto. Dai. I Bami, scenderesti una base, grazie amore. Allora, abbiamo trovato questo articolo carinissimo che praticamente riguarda i desideri, le 100 cose da fare prima di schiattare, prima di morire. Qua c'è scritto: succederà fra 100 anni, d'accordo, ma se così non fosse, non è meglio provare in anticipo tutto quello che ti sembra esagerato, sconveniente, fuori luogo, eccetera? Cosa bisogna fare? Allora, qui hanno scritto una serie di cose che secondo me ci accomunano un po'. Insomma, tu prima di morire hai un sogno, Leone? Sì. Dopo ce lo racconti? Poi te lo racconti. Benissimo. Per esempio, loro hanno scritto: allora, per un uomo, questo è uno dei sogni, diciamo così, più comuni, no? Andare a letto con due donne insieme. L'abbiamo già fatto. Già. O comunque con un minimo di due. Non si vede perché debba rimanere sempre un sogno realizzabile. È vero, è vero. Secondo me è un sogno che tanti uomini. Tu l'hai fatto? Io mai, no, giuro, mai. Mai io, io l'ho fatto. Tu l'hai fatto? Anche con tre. Ma stai con tre cagni? No, tre donne. Con, poi, con tre uomini. Poi è intervenuto un uomo, ha detto: poi accendiamo la luce perché era dietro di me. No! Poi c'è un altro esempio: ruttare in presenza del tuo capo durante la riunione. Questo però l'hai fatto. Già, questo io l'ho fatto. Okay. Ho anche lasciato andare dietro, se vogliamo proprio essere sinceri fino in fondo. Peroni non è un direttore. Dai. È un amico, Poi dare un calcio nel sedere a papà. Beh, questo no. Ma, insomma, no, questo non l'ho mai fatto. No. Bersi una botte intera di birra senza fretta e senza che ci sia bisogno di tirar fuori. Ah, sì, il ballo jamming, eccetera, eccetera. Sì, il jamming festival che fanno dove si beve di brutto. Sì. Poi mettersi al volante di una Ferrari e insegnare alla polizia stradale come si fa un vero inseguimento. Questo è già fatto. Salto dopo della patente, che cacchio te ne fai in paradiso. Dai. Però c'è una l'ha fatto un nostro amico, la fa. Sì, esatto. Salutiamo Gigi, che è uno che fa praticamente i Grand Prix ogni volta che si muove con la sua macchina. E la patente te la puoi dimenticare. Madonna, un animale. Mandare il tuo peggior collega a farsi fottere. Tu l'hai fatto questo. Questo l'ho fatto più di una volta. Beh, io e Giba, io e il traditore abbiamo litigato più di una volta. Io Leone, poi vogliamo. Spendere tutto lo scoperto permesso dalla tua banca. Bello, senza poi aver problemi il direttore ti chiama e dici: ma a me che me frega. Noi siamo sempre scoperti. Oh, il mutuo. Il mutuo. Oh, abbassate il mutuo. Abbassate il mutuo. Abbassa? Fatemelo passare sto mutuo. Banco Ambrosiano, fatemelo mi sono rotto un cacchio. Dai. Mi fanno passare il mutuo. Ma io non c'ho una lira. Tanzi, faccia passare il mutuo. Dai. Vi strappo i baffetti. Levate la gente e fai passare. Allora, aspetta, poi fare amicizia con Gianfranco Fini e portarlo in un noto locale gay. Non è facile, ma se ci riesci divertente. No, Gianfranco Fini ci deve far fare la televisione. Fare sesso lungo. Aspetta, fare sesso lungo l'intera durata di un film porno. Beh, questo sì, lo faccio. E se lei ti chiede: ma è solo perché sei eccitato dal film? Rispondere: ebbene sì. Zoccola. Però se il film lo interpreta lei. Ah beh, quello è vero. Nel mio caso. Poi vediamo: buttarsi in una bella rissa in discoteca. Almeno una scazzottata nella vita ci deve essere. Ma questo la potremo anche evitare. Organizzare un'altra orgia perché non c'è due senza il tre. Poi partecipare a C'è posta per te. Baciare sulla bocca la De Filippi e mandarla a quel paese. Questo è il sogno di Leone. No, la De Filippo no. Aspetta, poi votare per il più cretino dei candidati alle elezioni, sempre che tu non l'abbia appena fatto. L'abbiamo fatto tutti. Vabbè. Poi dare un calcio nel sedere alla mamma. No, questo non lo trovo divertente. Stracazzata. Farsi arrestare per futili motivi in una notte d'agosto solo per vedere come si dorme al fresco. Poi te lo mettono in quel posto. Appunto. Ma appunto, toccando questo argomento, caro Leone, qual è il tuo sogno nel cassetto? Cioè, tu potresti morire tra due minuti, voglio dire, ormai l'età ce l'hai. Io ce l'ho il sogno nel cassetto. Dai, diciamocelo. ti vorrei portare a te dal barbiere. Dal barbiere, sì. Ti vorrei far rasare tutti quei peli che c'è al culo. Sì. E puoi posare la mia croce dietro la tua. No! Ah, per riposare in pace. Ma perché? Per tutta la vita. Ma perché? Perché è l'unica cosa che voglio fare, l'unica cosa che mi attira prima di morire. Ma perché? A me no, Leone. C'è una mafia, la donna ormai era tu in casa. Vogliamo, cioè, il tuo sogno nel cassetto è quello di fare l'amore con me. Sì, poggiare il crocifisso dietro tuo. Ma perché? Perché quando lo farò, tu vivrai per 100 anni e dirà: ouch, c'è bella vita. Io ho bisogno di te. Solo e soltanto di te. Quindi per far l'amore di Irene Grandi è prima ti raso e poi faccio l'amore con te. Ecco, bravo. Bei sogni, complimenti, Leo. Ciao Gilberto, come stai? Bene, grazie. Ciao ragazzi, siete fortissimi. Grazie, grazie. Anche io Gilberto sono fortissima. Tu mi fai schifo. Bravo, bravo Gilberto. Vedo che sei dei nostri. Attenzione, allora, questo è il test di oggi, attenzione, eh? Sì, vai, vai, vai. Allora, attenzione. Dimmi, base, la base, grazie. Ah, sì, sì, scusa. Grazie. Sì. Come si sono conosciuti Leone e Nenna Rosa? Ah. A, Leone sfilava in un museo delle cere di Trani. Nenna Rosa, appassionata dei dinosauri, se l'è comprato. B, Leone era un... Aspetta. Dai. Leone era in un bordello dopo aver pagato la prestazione e come resto gli hanno dato Nenna Rosa. Sì. O C, Nenna Rosa lavorava in un centro di ricerche robotiche e per uno strano cortocircuito ha dato vita ad un bidone della spazzatura che ha dovuto adottare. A, B o C? Sì. A, benissimo. Sommiamo il tuo punteggio. Dai. Oh, non rovinarmi. Dai, zio. Quanto fa? 25. E meglio, meglio. Bravo. Ciao, volevo fare, posso fare dei saluti, Marco? Certo, vai, vai. Allora, volevo salutare mia mamma, mio papà, mia sorella, mio cugino, mia nonna, il mio amico Claudio Mazzoli, Mercedes, Nella Rosa e tutti quelli che mi conoscono. Grazie. Enrique Juan. No, Ricky Juan no. Perché? Perché mi fa schifo. È tuo figlio, Leone. Beh, fa schifo mio figlio. Grazie, Gilberto, hai detto che ti chiami? Sì, da Bucinasco. Da Bucinasco, sì. Benissimo, grazie. Ciao caro, buona giornata. Grazie a te. Ci fai veramente schifo, quindi cambia radio. Cosa ho vinto, scusa? Cioè. Niente, hai vinto, uno schiaffo hai vinto. Grazie. Ce lo teniamo noi. Ciao. Grazie. Ciao amore, ciao. Grazie. Ciao. Cambia radio. Ciao. E basta. Con Spacci, il tuo corpo di Jimmy Parfum. Jimmy Parfum. Da oggi potrai attirare persino le mosche femmine, grazie all'essenza del venerabile Jimmy. Jimmy. Jimmy Parfum contiene essenza di ascella di Jimmy, spremuta di calzini da palestra del venerabile e olio di capelli dopo un torneo di calcetto. Solo poche gocce e come per magia le donne vi scambieranno per Jimmy e vi supplicheranno di bombarle come dei pazzi. Jimmy Parfum. Jimmy Parfum. Anch'io, che sono la voce ufficiale dello zoo, bombo come un pazzo. Parola di Fabrizio Cerutti. Attenzione, sigla, grazie. Ziba. Le interviste dello zoo di 105. Nel frattempo, Via Turati è ingorgata. Ha bloccato anche il tram. Madonna, ma. Leone, vai, vai, vai. Sì, allora. sto andando, guarda, aspetta. Senti, oh, come ti chiami tu? Franco, guarda che mi sono fermato per investirlo, voglio il cappellino e maglietta. Sanguinati. Un pack di brioche. Senti un po', ti mancherà lo zoo di 105? Tantissimo, non so proprio guidare, guarda. Surfer Clarkson. Assordo, stato buono. Un altro, Leo. Sospeggia, pure. Mi mancherà lei lo zoo di 105? Prego? Le mancherà lo zoo di 105? Le mancherà lo zoo di 105? Non ho capito. Lei di dov'è? Giappone. Anche lei c'è DJ giapponese. Lei va a fare. A te ti mancherà lo zoo di 105? Come no, certamente. E tu, io ti mancherò a te. Ma tu puoi a Fengul. No! Perché ti mancherà? Eh beh, ogni mattina mi alzo con lo zoo, lavoro con lo zoo, ai miei clienti faccio ascoltare lo zoo. Fai l'amore con lo zoo? Solo con la parte femminile. Ah, anch'io sono quindi femminile. Con Giba, abbiamo capito tutto, con Giba. Quindi siamo felici di questa cosa qua. Senti, allora, Leone, fai una cosa. Adesso dobbiamo andare alla linea da carbone. Siccome è incinta, potrebbe partorire da un minuto all'altro. Che lì sono canile. Dopo apriamo un canile apposta. Oh, vaffanculo. Dai, saluta. Ti mancherà lo zoo di 105? Bacetto, Leone. Suona ciao, il claxon. Suona il claxon. Affanculo. Oh, basket, qui mi ammazzano. A tra poco, Leo. Ciao. Ciao, a tra poco.